Sun fa come un camel. Ho scambiato una vanga per un restel. Sun fa come un camel. Ho scambiato una vanga per un restel. E anche stasera sun bel. Ma grava ban con whisky ban, na vecchia ban fernet. Ma grava ban con whisky ban, na vecchia ban fernet. Sufa, sufa, e come un camel scambia una vanga per un restel. Sufa, sufa, e come un camel scambia una vanga per un restel. E anche stasera su un bel. Stasera su un bel.